in primo piano. C'è la politica sui giornali, politica soprattutto internazionale, almeno nelle aperture. Come sapete, ieri si è votato in Germania e diciamo che la vittoria di Angela Merkel è quella che è la notizia che trovate nelle aperture dei giornali. Una rapida carrellata dei titoli: il Corriere della Sera, vince la Merkel, crollo dei socialdemocratici; la Repubblica, Germania trionfa il centrodestra; la Stampa, la Merkel svolta a destra; il Messaggero, Germania vince la Merkel. Ed è questa sicuramente la notizia del giorno, cioè politica in Germania, anche se poi c'è anche molta politica italiana. Ci sono anche diversi commenti su questa vittoria netta del centrodestra in Germania. Sergio Romano, in prima pagina del Corriere della Sera, una lezione per l'Italia. Avevamo capito da parecchio tempo che la maggioranza dei tedeschi voleva essere governata per una seconda legislatura da Angela Merkel, scrive Romano, ma la Germania purtroppo si è italianizzata, ha smesso di essere tendenzialmente bipolare per diventare pentapolare e produce così risultati elettorali che contengono in sé teoricamente 4-5 coalizioni. Avremo probabilmente, come era nelle speranze del cancelliere, un governo composto da cristiano-democratici e liberali. Poi c'è un altro aspetto, secondo Sergio Romano, di queste elezioni a cui dovremmo guardare con invidia. Nel corso della loro campagna elettorale, Merkel e Frank-Walter Steinmeier hanno evitato di esasperare le loro differenze e di proporsi al paese come scelte radicalmente diverse. Ciò che ha maggiormente colpito, scrive, nelle scorse settimane, è l'assenza di aggressività, di battibecchi, di scontri frontali, di accuse reciproche. Questa non è soltanto buona educazione. I due leader hanno responsabilità di governo. Dunque, rimarcando la differenza dalla politica molto urlata che c'è in Italia. Dicevamo, diversi commenti, diverse interviste, e uno dei commenti che trovate su tutti i giornali analizzati all'interno è la, più che la sconfitta, la disfatta della SPD, del centrosinistra. Tanto che sulla Stampa, pagina 5, c'è un'analisi di quello che sta succedendo in Europa. Unione Europea, socialisti a rischio estinzione. La nuova Commissione Europea potrebbe avere solo 4 rappresentanti su 27. Scrive Marco Zatterin: hanno sperato nel miracolo sino all'ultimo i socialdemocratici europei. Aggrappati ai compagni tedeschi, chiedevano un segnale che desse loro la forza di credere ancora in un'inversione di rotta. Invece no, i governi a sinistra del centro in Europa sono rimasti 7 e presto, quando i Tories riprenderanno Westminster, saranno 6. Gli ultimi testimoni del sogno infranto che in tempi non lontani Blair e Schröder chiamavano la terza via, una debacle senza appello. Nel 2000 gli esecutivi di centrosinistra nell'Unione erano 10 su 15, oggi il centrodestra arriva a 20 su 27. La profezia del sociologo Ralf Dahrendorf, che a metà 80 disse di vedere la socialdemocrazia su un binario morto, pare essersi avverata. Ed effettivamente gli ultimi rimasti, scrive Zatterin, sono Spagna, Norvegia, Portogallo, Ungheria, Slovenia e Slovacchia, mentre la Gran Bretagna è in bilico. E sulla disfatta dell'SPD c'è anche sull'Unità un'intervista ad Angelo Bolaffi, che è un noto germanista, insegna la Sapienza e anche direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Berlino, che dice: più che una mala sconfitta, questa per la SPD è una vera e propria catastrofe. La SPD aveva indicato come limite vitale il 25%, il risultato ottenuto è del 23,3%, il peggiore dal dopoguerra. Inevitabilmente ci sarà un ricambio di tutta la classe dirigente. E dice Bolaffi, davanti a sé la SPD ha una sorta di traversata nel deserto. Dunque, le analisi sono tutte sulla vittoria di Angela Merkel, sulla disfatta dei socialdemocratici, dell'SPD in Germania e la nuova coalizione che si vedrà molto probabilmente dunque con i cristiano-democratici e i liberali. Venendo alla politica italiana, i toni qui si alzano un po', come scrive Sergio Romano. Ieri ha tenuto banco il premier Silvio Berlusconi alla Festa del Popolo della Libertà a Milano, un comizio che è riassunto in vari modi dai giornali. Berlusconi alla sinistra, siete fuori dalla storia. Questo è il titolo che sceglie La Stampa, pagina 8. Noi qui per sempre siamo alleati con la Lega. Ovviamente c'è questo tema di scontro e di polemica su questa frase di Berlusconi che avete sentito anche in GR24 sulla questione dell'Afghanistan. L'opposizione gioisce per i soldati morti, bruciano le bandiere, inneggiano almeno 6, bruciano le bandiere americane e la bandiera israeliana. C'è stata poi una precisazione del portavoce a dire che non si riferiva all'opposizione in senso di partiti, ma a alcune frange dell'estrema sinistra. C'è però la replica di Casini sul Corriere della Sera: ci ridicolizza, ora intervenga il Colle. Pier Ferdinando Casini chiede l'intervento del Quirinale, del Presidente della Camera. Il Premier non può in alcun modo falsificare e ridicolizzare l'opposizione di questo paese che ha difeso e difende i militari italiani impegnati nelle missioni di pace. Ovviamente i tanti resoconti si concentrano anche su alcune frasi che hanno fatto discutere. Addirittura pensate che l'Unità titola in prima pagina: chi mette Michel Obama, mette anche le note della canzone abbronzatissima. Perché ieri Berlusconi ha detto: Obama, si vede che in spiaggia sono in due, perché è abbronzata anche la moglie. Diciamo, battute a parte, quello che rimane è il segnale politico. Il segnale politico più forte è diciamo le frizioni con Gianfranco Fini all'interno del Popolo della Libertà, tanto che la festa del PDL, questo è il titolo del giornale a pagina 10, la parabola di Fini, clandestino nel centrodestra, stanco di essere un corpo estraneo anche tra i suoi, ora chiede cittadinanza al partito. Che non c'è un commento di Salvatore Tramontano, ma anche su Repubblica il tema è questo: salta la tregua con Gianfranco, con lui rischiamo di perdere al nord. Scrive Francesco Bei su Repubblica: la botta è arrivata forte e chiara e la fragile tregua tra Fini e Berlusconi, siglata a Casaletta appena una settimana fa, è già sul punto di saltare. A Gianfranco Fini non è sfuggito infatti che quella stroncatura del voto degli immigrati, il riferimento di Berlusconi a una subdola strategia della sinistra, era in realtà un messaggio rivolto a lui. Fatto sta che i rapporti tra i due sono tornati immediatamente a segnare il brutto, e da Montecitorio filtra infatti tutta l'irritazione del leader di Alleanza Nazionale per un attacco che, dicono i suoi, meriterà una risposta. Tra l'altro, sul tema politico ci sono un'intervista a Beppe Pisanu, che è il presidente dell'Antimafia, sul Corriere della Sera, intervista Paola Di Caro, che dice Pisanu: capisco il disagio di Fini, la Lega ha un peso eccessivo, sospettano anche di lui, inizia così l'articolo Paola Di Caro, per quel dialogo con esponenti dell'opposizione come Casini e D'Alema, per quei silenzi in momenti topici quando il PDL chiama la guerra e lui non indossa l'armatura, ma Giuseppe Pisanu non si scompone. Dice: guardi, il governo ha una maggioranza solida, benché percorsa da preoccupazioni e inquietudini che derivano in gran parte dal deterioramento del clima politico in generale. Ma la verità, dice Pisanu, è che il governo è saldo, non ci sono maggioranze alternative, il PDL è ben lontano da qualsiasi ipotesi di divisione. Poi però si parla della vicenda Fini. Dice Pisanu: fin dal congresso del PDL Fini ha posto una serie di problemi importanti sui quali ha chiesto di discutere, mi sembra del tutto naturale. E poi il tema della Lega: riconosciamo alla Lega i meriti che ha nel padroneggiare le situazioni, dice Pisanu, ma è vero che soprattutto al sud c'è la sensazione diffusa di un peso eccessivo della Lega e più in generale di una prevalenza a tratti immotivata di un'idea nordista che si impone su tutto e su tutti. Questo Pisanu che insomma dice appunto: capisco il disagio di Fini, la Lega ha un peso eccessivo. Per abbandonare la politica vi voglio leggere quello che oggi scrive Giuliano Ferrara in prima pagina sul Foglio: ora il Cavaliere si rimetta al lavoro e ci sorprenda di tanto in tanto. Questo è il titolo, scrive Ferrara. Ora Berlusconi torna in Italia e si rimette al lavoro, ritira le citazioni civili ai giornali, smette di occuparsi dell'inesauribile letteratura sulla sua vita privata, lascia che la TV si faccia da sola e da sola si involtoli nel proprio nulla, rimette all'onore del mondo il meglio del suo carattere, sorridente, dialogante, autoironico, si dà una disciplina e un'agenda politica e la propone al paese, magari dà anche un'intervista a Repubblica. E poi dice Ferrara, insomma, gli si chiede a Berlusconi di varare una seria e profonda riforma della giustizia, di provvedere con lungimiranza al deficit energetico realizzando il progetto del nucleare civile, di integrare le giuste misure di contrasto dell'immigrazione clandestina selvaggia con procedure di integrazione visibili e di tutela del diritto d'asilo in cooperazione con l'ONU. Gli si chiede di occuparsi di cultura, istruzione, salute, sempre nel segno di un metodo liberale e di contenuti attenti. Gli si chiede di andare in Parlamento spesso, di dare il senso di una qualche considerazione istituzionale della classe dirigente eletta. In televisione, invece, meglio andarci di rado. E poi, dice Ferrara, abbiamo bisogno di essere divertiti, incuriositi, sollecitati dalle mille attenzioni che quel grande uomo di spettacolo è capace di prodigarci come cittadini e come spettatori. Soprattutto ci piacerebbe essere sorpresi di tanto in tanto, non sempre nomine di fedelissimi, qualche volta apertura e competenze diverse, sia pure a sinistra o in ambienti lontani dai soliti circuiti, e uno spirito di governo proiettato sulla legislatura senza chiusura ai partiti. La maggioranza c'è, non bisogna vivere con la sindrome del 24 luglio permanente. Auguri e buon lavoro. I lettori del giornale scatenati, questo è il titolo di apertura del giornale per l'appunto, valanga di firme contro il canone Rai. Ieri il giornale, ma anche Libero, bisogna dire, hanno lanciato questa provocazione, o meglio questa campagna. Contro anno zero, contro programmi come anno zero, bisogna disdire il canone Rai. Dal mondo politico abbastanza compatto, anche il centrodestra, a dire che è una campagna sbagliata, chi invece la giudica giusta, battaglia giusta, lo diciamo da 20 anni, è Roberto Castelli, viceministro alle infrastrutture, fa un'intervista proprio al giornale a Stefano Zurlo. Arrivate 20 anni in ritardo, una battaglia che la Lega fa da 20 anni. E alla domanda, ma lei lo paga il canone? Castelli risponde, diciamo che non l'ho pagato negli anni 90. E poi racconta insomma il perché della battaglia della Lega. Castelli, in battaglia contro il canone, addirittura uno dei nostri militanti leghisti finì in cella tanti anni fa per essersi rifiutato di pagare il canone. Per fortuna quei tempi eroici sono finiti, ma il problema è intatto. Apprezzo il vostro sciopero del canone, dice Castelli al giornale. Lei oggi è un uomo di governo, e dice, la soluzione? Privatizzare la RAI. Si farà? Non credo, risponde Castelli. Alternative? Ecco la soluzione che mi diverte, la dica. Importante importare dalla Gran Bretagna il modello Hyde Park, creare un angolo dove chiunque può dire la sua. Sta scherzando, gli chiede Zurlo. Mi piacerebbe molto, ma temo non sia fattibile. Chi stabilirebbe i tempi, la successione degli interventi? La mia, mi rendo conto, è un'utopia. Comunque Castelli dice, bella questa battaglia. Si parla di Garimberti, il presidente della RAI, citato da Repubblica, un invito vergognoso, per il PD è un'aggressione. Insomma, anno zero, ancora una volta, fa parlare di sé. E poi, per chiudere davvero con la politica, cito questa intervista perché voglio ricordare così il nostro sondaggio: dalla strage in villa a capo delle ronde. Aiuto gli altri così ricordo i genitori. È la storia di Daniele Pellicciardi, che è il figlio di una coppia che fu uccisa brutalmente a Gorgo al Manticano. Due genitori che furono uccisi da una banda di albanesi che entrarono nella loro villa. Ebbene, il figlio che cosa farà? È stato chiamato dal sindaco di Oderzo per guidare le ronde che partiranno tra poco. Era un vigilante, ho lasciato tutto, ho subito riconsegnato la pistola, ora faccio il magazziniere, ma ora sarò a capo delle ronde che partiranno. E proprio questo, tra l'altro, è sondaggio nostro, ve lo voglio ricordare, a 2 mesi dalla partenza delle ronde, un po' a rilento, vi vogliamo chiedere se, visto che le richieste sono poche effettivamente, vi chiediamo se sono davvero necessarie per la sicurezza. Che ne pensate? Potete già votare sul sito radio24.it o ilsole24ore.com, poi ne parleremo approfonditamente alle 8.30. Oggi troverete su tutte le pagine dei giornali la foto del volto di Roman Polanski, regista famosissimo, 76 anni, polacco di nascita, naturalizzato francese. È stato arrestato in Svizzera per una vicenda molto lontana nel tempo, ma che la giustizia americana pensa di volergli far scontare fino in fondo: lo stupro nei confronti di una modella di 13 anni. In realtà qualcosa già pagò Roman Polanski da allora, ma da allora è anche bandito dagli Stati Uniti, non vi può mettere piede. E però che è successo? È andato in Svizzera e il procuratore di Los Angeles, d'accordo con la procura di Zurigo, lo ha fatto arrestare. Ci sono tanti profili sulla sua vita da dannato, la vita sicuramente segnata anche da gravissimi lutti, come l'uccisione di sua moglie da parte della setta di Manson, di Charles Manson, nel 69. Dall'incubo di Sharon Tate, appunto sua moglie, alle Lolite, tutti gli eccessi di un artista esagerato, il profilo di Giuseppe Videtti sulla prima pagina di Repubblica ricorda appunto quella vicenda del 78 di Samantha Gamer. Allora aveva 13 anni, oggi ne ha 45. Lui mi scattava le foto, io bivevo champagne, non mi sentivo a mio agio, dissi di no diverse volte, poi mi arresi. E Roman Polanski che dice: credo di aver pagato abbastanza per questa storia, tornerei anche negli Stati Uniti, aveva detto qualche tempo fa. Mi ucciderebbero però i media, non la giustizia. Siamo in conclusione, voglio ricordare sul Sole 24 Ore due interessanti servizi. Il primo è questo: nell'Italia delle rate anche il fisco si adegua. Che succede? Che aumenta moltissimo la rateazione dei debiti. 5 miliardi di tasse a rate, questa è l'apertura oggi del Sole 24 Ore. Che succede? Sono 500.000 i contribuenti che hanno ottenuto da Equitalia la possibilità di dilazionare le somme che devono al fisco o agli enti di previdenza. Si tratta sostanzialmente di almeno 5,2 miliardi di tasse che hanno imboccato la strada delle rateazioni. Ci sono tutta la classifica delle province, delle regioni, come al solito lunedì è davvero fa delle fotografie molto illuminanti, Sole 24 Ore, di come va l'Italia su alcuni temi. Per esempio, ricordate quando abbiamo parlato della vicenda di Taranto che ha detto alla provincia dovete cambiare entro 30 giorni, altrimenti se non c'è nessuna donna nominata come assessore, la provincia di Taranto è da considerarsi sciolta. È stata accolta un ricorso di un'associazione da parte del TAR della Puglia. Ebbene, oggi il Sole 24 Ore fa tutta un'analisi. Dopo la decisione del TAR, a rischio una giunta su 5. Cosa hanno fatto? Sono andati a vedere tutte le giunte provinciali o regionali dove non ci sono donne tra assessori. Ebbene, per esempio in Lombardia, nella giunta regionale, ci sono 0 assessori donne, così in Basilicata, e poi in tutte le province, in tutti i comuni di capoluogo, a Benevento, al comune, non c'è una donna, a Brescia, in provincia, non c'è una donna, a Caltanissetta, in provincia, non c'è una donna, a Catania non c'è una donna, né in comune né in provincia, insomma, state attenti perché i ricorsi sono dietro l'angolo. Ci fermiamo qui dunque con questa segnalazione. Ricordo il sondaggio che potete votare, radio24.it, la sezione bianco o nero. Parliamo di ronde, sono davvero necessarie a 2 mesi dalla partenza, un po' a rilento per la sicurezza? Che ne pensate, sì o no? Ne parleremo alle 8.30, potete anche chiamare all'800 24 00 24 per intervenire.